America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Da Ken, anzi, da Omaha Beach in Normandia, Mario Platero. Non sapevo come darvi l'idea della presenza fisica e del silenzio qui su queste spiagge e ho registrato delle folate di vento che arrivano dall'Atlantico, anzi dal Canale della Manica, che è qui davanti a me. E la giornata è bellissima, oggi abbiamo un pieno sole, e ci sono pini sulle alture. E qui dietro erano appostati i tedeschi per difendere la costa e subito dietro i pini e le alture c'è questo prato sterminato, il cimitero di guerra, 70 ettari, 9.347 croci o stelle di Davide, e sotto si vede la spiaggia che è lunga quasi 8 chilometri e devo dire che l'evento di oggi, dal principio alla fine, dall'arrivo alle celebrazioni, è commovente vedere gli ultimi reduci novantenni che si sono trascinati qui forse per l'ultima volta, è commovente vedere le spiagge, questa Omaha Beach, dove mi chiedo come quei ragazzi ventenni riuscivano a trovare il coraggio per andare contro le postazioni naziste accovacciate su in alto in posizione di vantaggio. E dunque raccontiamolo questo sbarco, perché oggi lo celebriamo. Dopo quasi un anno di preparazione, tranelli con finte mosse per confondere i tedeschi, lo sbarco, il D-Day, parte alle primissime ore della notte del mattino del 6 giugno 1944, esattamente 70 anni fa oggi. I grandi ideatori dello sbarco, il generale Eisenhower, Winston Churchill, ovviamente sono gli eroi ideali di queste gesta, però poi ci sono quelli che sono arrivati e che sono morti. 24.000 uomini, soldati americani, canadesi e britannici vengono lanciati subito dopo la mezzanotte dietro le linee nemiche. Alle 6:30 del mattino il primo sbarco, quello del massacro, perché dovevano aprire le strade per il resto delle forze armate che sarebbero arrivate dopo. Lo stesso succedeva a Utah Beach, a Juno, a Gold Beach, a Sword Beach e a Omaha alla sera, alle 9, quando la spiaggia fu finalmente conquistata, si fanno i conti, sul campo restano migliaia di morti, 1200 morti fra i tedeschi, bilanci simili sulle altre spiagge, la maggioranza giovani fra i 18 e i 30 anni, ma la testa di ponte era assicurata. Torniamo qui adesso in spiaggia, a Omaha Beach, ci sono le bande militari, ci sono i figli, i nipoti degli eroi dello sbarco. Sono stato giù proprio sulla sabbia, sulla spiaggia, prima qui a Omaha, poi a Sword Beach. Ci sono i leader dei paesi che hanno combattuto, anche i leader tedeschi e italiani che pure erano i nemici. C'è il nostro presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che era nella resistenza, c'è Angela Merkel, David Cameron, François Hollande, Vladimir Putin. La Russia ha giocato un ruolo chiave, Obama ha riconosciuto l'importanza di avere la Russia su queste spiagge dove si è sparso sangue americano per salvare l'Europa. Simbolicamente dovremmo essere tutti dalla stessa parte. We don't just commemorate victory. We don't just honor sacrifice. We come to remember why America and our allies gave so much. Avete sentito il presidente americano che rende omaggio ai caduti, ai veterani, un sacrificio che non dovremmo dimenticare mai, ha detto il presidente, un messaggio molto contemporaneo con le tensioni che stiamo vivendo in Europa dell'Est, dove Mosca e Washington si accusano reciprocamente di aver avviato una nuova guerra fredda. Del resto, lo ha ricordato lo stesso presidente americano, questa giornata chiude sul piano simbolico una settimana intensa, faticosa, drammatica, che ho cercato di raccontarvi dai primi giorni a Varsavia, in piazza, a celebrare un altro anniversario di liberazione, il 25esimo per la Polonia dal giogo della dittatura comunista, ai messaggi duri alla Russia da Bruxelles, la Russia che sembra comportarsi con l'Ucraina come se fosse un suo territorio invece che uno Stato sovrano, cosa che riporta il ricordo di episodi di violazione territoriale che scatenarono la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, è su questo che mi sembra importante riflettere, ho detto apposta che Washington e Mosca si accusano reciprocamente, perché c'è propaganda in arrivo dalla Russia, una retorica propagandissima che ha successo, perché alla fine lo sappiamo, è Mosca che ha annesso dei territori non suoi, non Washington. E voglio pensare all'Italia, se oggi siamo un paese libero, moderno, con un'economia a forte potenziale, se la gestissimo bene, e anche grazie a quello che è successo su queste spiagge, mi sembra però che molti lo abbiano dimenticato. Devo dire, in questo mio viaggio ho percepito sentimenti anti-americani, questo ve l'ho già detto in un'altra trasmissione, sentimenti pro-Putin, cosa che credevo impossibile. Ho ricevuto tweets che giustificavano l'atteggiamento russo, mi attaccavano, dicevo, la Russia è circondata, mi dice uno, è a rischio di essere smembrata, mi dice un altro, si difende, ha detto un altro ancora. Bene, cose fuori dal tempo, dalla storia, dalla ragione. La stabilità, l'ordine, la pace sono elementi essenziali per la crescita, per il benessere economico, e dunque questo ricordo di oggi qui a Omaha Beach è fondamentale. La matrice che si combatteva allora è la stessa che ci minaccia oggi. Non ci sono democrazie diverse fra loro, come afferma Putin per giustificare il suo autoritarismo e il fatto che ogni tanto sparisca qualche giornalista o che il gruppo degli oligarchi vicino a lui abbia spremuto il paese restituendo poco all'economia. Democrazia non è totalitarismo, non è oligarchia. La difesa dell'Ucraina è in nome della legalità e contro la decisione di un uomo forte al potere, in nome dunque della democrazia che ci garantisce, e queste spiagge ce lo ricorderanno sempre. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica, potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vi ho raccontato un giorno eroico, ma le parole servono poco, vi chiedo perciò di andare a rivedere un capolavoro, il film di Steven Spielberg, Saving Private Ryan, un film dove per i primi 27 minuti ci sono scene violente, realistiche, drammatiche, paurose, devo dire spaventevoli, della ricostruzione dello sbarco in Normandia, poi la ricerca dell'unico sopravvissuto di quattro fratelli già morti, appunto il soldato Ryan. Per il D-Day e per l'anniversario di oggi, da Saving Private Ryan, film di molti Oscar, il tema musicale Hymn to the Fallen, inno ai caduti. da Omaha Beach. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.